Letture di Radio 24. Nel nome del femminicidio si è scatenata nei mesi scorsi una grossa campagna mediatica partita dalle esternazioni della Presidente della Camera, Laura Boldrini. Ma basta guardare i numeri per capire che la presunta emergenza si è trasformata in un'autentica ossessione, come scrive Annalisa Chirico su Panorama. Uccidere è un atto sempre deprecabile. Uomo o donna non fa differenza, o almeno non dovrebbe farne. In Italia, attorno al cosiddetto femminicidio, è invece divampata una martellante campagna mediatica, alla quale si è uniformata quasi tutta l'informazione. L'emergenza ha ispirato libri, spettacoli teatrali, accorati appelli, flash mob di scarpe e foulard rossi per rompere il silenzio contro la violenza di genere. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne è comparso persino un fiocchetto rosso sui siti del governo italiano. La medaglia di prima combattente contro l'apocalisse femminicida se l'è guadagnata la presidente della Camera Laura Boldrini, che già nel discorso di insediamento aveva annunciato il suo impegno contro la violenza subita dalle donne e travestita da amore. Tutto bene, tutto giusto. Del resto, come si può essere a favore della violenza? Semplicemente non si può. L'ossessione, che di ossessione si tratta, si è impadronita dell'intelligenza di sinistra e delle radical femministe, tanto da stimolare una vincente diatriba linguistica. Sopprimiamo femminicidio e facciamogli subentrare da subito genicidio, ha invitato Guido Ceronetti su Repubblica. Chi scrive non è certo favorevole a che le donne vengano violentate, picchiate e uccise. Sembra finanche ridicolo doverlo precisare. Tuttavia, basta guardare i numeri per rendersi conto che la presunta emergenza si è trasformata appunto in un'autentica ossessione. Contrariamente a quanto urlano le sirene allarmiste, l'Italia non è diventata un paese di maschi stupratori e assassini. I maschi latini hanno mille difetti, ma non sono killer seriali di consorti e compagne. Lo dicono anzitutto i numeri. Il Ministero dell'Interno non usa il lemma femminicidio, ma computa gli omicidi volontari consumati in ambito familiare e o affettivo con vittime di sesso femminile. Dai dati ufficiali apprendiamo che dal 2007 a oggi non c'è stata alcuna escalation né impennata, termini ampiamente abusati da politici e giornalisti. Nel 2007 i casi di female assassination sono stati 103. Il picco si è raggiunto nel 2009 con 130 episodi. Se ne sono registrati 115 nel 2010, 124 nel 2011, 111 nel 2012 e 115 nel 2013. Se ci atteniamo ai numeri, è facile comprendere che le dimensioni del fenomeno su una popolazione di oltre 60 milioni di abitanti non lasciano prefigurare alcuna apocalisse. A dispetto di quello che il cancan politico-mediatico vorrebbe farci percepire, i numeri dicono che in generale gli omicidi sono calati e nel 2013 hanno fatto registrare il tasso più basso degli ultimi 150 anni. Lo scorso anno si sono consumati 470 omicidi volontari e la quota totale di donne ammazzate, di cui i femminicidi sono un sottoinsieme, rappresenta poco più del 30%. I maschi continuano ad essere ammazzati assai più delle femmine. Il rapporto è di 7 a 3. Su una falsa percezione alimentata da mass media e teologhe dell'Apocalisse si è fondata una legge dello Stato che punisce più severamente l'ammazzamento delle donne. Il governo intervenne in piena estate con decretazione d'urgenza. Lo richiedeva, per l'appunto, l'urgenza del pregiudizio che ingoia la realtà. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Annalisa Chirico «Il femminicidio è un'ossessione mediatica». Da Panorama del 19 febbraio. Letture di Radio 24. Dal trucco dello specchietto rotto al finto parente che ha avuto un incidente stradale, dai tablet farlocchi che all'interno hanno solo una lastra di ferro all'intramontabile gioco delle tre campanelle. È ancora vero il mito napoletano delle truffe? Si domanda Dario Del Porto sul Venerdì di Repubblica. Parrebbe di sì, almeno in parte. A Napoli, città delle truffe, il pacco è sempre in agguato. Molti ci cascano, pochi denunciano. La cicca, lo specchietto, il vecchio amico e l'avvocato. Più tempo impiegate a capire il trucco, più fate il gioco del truffatore, abile a sfruttare le vostre paure, la vostra distrazione, l'ingenuità degli anziani. Se siete in auto, per esempio, e sentite un tonfo all'altezza dello specchietto laterale, state molto attenti. Probabilmente l'uomo che sta venendo verso di voi, la mano insanguinata e un orologio in frantumi al polso, non è stato neppure sfiorato dalla vostra auto. Non ha bisogno di cure, né vuole andare in ospedale. Sta solo cercando di fregarvi. Ha colpito lo specchietto con un sasso oppure con un bastone e si è procurato le ferite da solo. Eppure vi dirà che gli avete fatto male e dovete risarcirlo. Quindi ammiccherà: datemi 100 euro e la facciamo finita. Voi accetterete, forse tirando un po' sul prezzo, ma finirete per pagare. Questo tranello rappresenta un'emancipazione della madre di tutte le truffe, la gigantesca industria dei falsi incidenti stradali. Una ragnatela di malaffare che coinvolge periti, avvocati, medici e testimoni prezzolati e ha determinato l'impennata dei premi assicurativi per tutti i residenti in Campania. Molti automobilisti cascano nella truffa dello specchietto proprio per il timore di subire l'aumento della polizza e vanno via quasi sollevati dopo aver messo le banconote nelle mani del ferito. Fino a qualche mese fa questo schema è andato fortissimo nella zona collinare di Napoli. Ora sta invece prendendo piede la cicca. Se fumate in auto e avete la cattiva abitudine di gettare il mozzicone fuori dal finestrino, state in guardia quando la vettura sarà affiancata da un motorino. Il giovane ostenterà un giubbotto bucato e griderà alterato: «Ma vuoi stare più attento con quella sigaretta?» Poi vi chiederà 50, forse 100 euro, per togliere tutto di mezzo. Le vittime più esposte sono gli anziani. Se avete fra i 65 e i 90 anni, occhio al telefono di casa. Qualora dovesse chiamarvi un avvocato per dirvi che un vostro parente ha avuto un incidente stradale, ha ferito una donna incinta e rischia la galera, non gli prestate ascolto. È un imbroglio. Vogliono spillarvi quattrini, facendosi passare per legali pronti a tirare fuori dai guai il ragazzo. Se gli date appuntamento a casa, intascheranno i 3.000 euro di parcella, poi proveranno a rubare gioielli e oggetti di valore. Nella zona di Napoli agiscono diverse bande. Il pool coordinato dal procuratore aggiunto Fausto Zuccarelli ha di recente chiesto il processo per 4 imputati. 2 procuravano le schede telefoniche intestate a ignari prestanome, un altro telefonava alle vittime, un complice si presentava a casa dell'anziano e prendeva i soldi. Ma tanti non denunciano e restano ancora da scoprire i basisti che indicavano i bersagli ai malviventi. Un altro asset della truffa è il vecchio amico. Può capitare di essere fermati da un giovane che parla, sorride e vi abbraccia come se vi conoscesse da sempre. Vi chiederà come stanno i vostri genitori, vi racconterà di essere andato via da Napoli e di aver fatto fortuna al nord. Forse vi inviterà il giorno successivo a prendere un caffè sul lungomare. Nel frattempo, però, che disdetta, ha noleggiato una macchina e non gli accettano la carta di credito aziendale. Così vi chiederà un aiuto. 100 euro, dai, domani te li restituisco. Molti abboccano, qualcuno, più sfortunato, si vede strappare di mano il portafogli. E poi ci sono i pacchisti, i pionieri della truffa. Se state visitando il centro di Napoli, diffidate di chi tenta di vendervi uno smartphone oppure un iPad a non più di 80 euro. Vi sembrerà perfetto, e lo è. Ma dopo aver preso il denaro, il venditore inserirà nella confezione una tavoletta di ferro. I poliziotti dell'ufficio Prevenzione Generale della Questura, diretto da Michele Spina, hanno filmato tutta una scena. Dopo lo scambio, il pacchista non scappa, cammina. L'acquirente intanto prova ad aprire l'astuccio dello smartphone, ma invano. Il truffatore ha chiuso la cerniera con la colla. L'altro evergreen è il gioco delle tre campanelle. Resiste ancora nei vicoli a ridosso della stazione centrale di Napoli. Bastano 5-6 persone intorno a un tavolino e un pollo che si avvicini incuriosito. Il gruppo finge di divertirsi, alternando giocate fortunate ad altre meno positive. Poi qualcuno chiede alla vittima la cortesia di reggergli il denaro e poco dopo il banco lo invita a ritirare la vincita. Quando il malcapitato spiega di non aver ancora giocato, lo spingono a puntare e una giocata dopo l'altra lo spennano. Poi ci sono i professionisti della metropolitana. Guardatevi dal giovanotto che si offre di aiutarvi a far funzionare la macchina per l'acquisto dei biglietti. Potrebbe non essere un cittadino modello, ma un ladro. E la signora che lo aspetta con una carrozzina forse non è la fidanzata, ma una complice. Mentre vi assiste, il giovanotto vi ha sfilato il cellulare o il portafogli, a volte tutti e due, passandoli alla donna. Con il biglietto finalmente fra le mani, salirete sul treno e quando vi accorgerete di non avere più soldi né telefonino, sarà già troppo tardi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Dario Del Porto, Incidenti mai capitati e amici ritrovati? Il pacco è in agguato. Dal venerdì di Repubblica del 14 febbraio. Nei giorni scorsi, i lavoratori socialmente utili di Napoli hanno protestato contro i previsti tagli allo stipendio, occupando 70 scuole. Sono decenni che questa categoria, nata dall'ennesima forma di assistenzialismo, blocca treni, traghetti e aeroporti per protesta. Ma ora che sono arrivati a negare il diritto allo studio, commenta Marco De Marco sul Corriere della Sera, le istituzioni dovrebbero reagire, anziché mostrare la solita colpevole tolleranza. Superamento del bicameralismo? Riforma del titolo quinto della Costituzione? Nuova legge elettorale? Ma che? Napoli non darà al nuovo governo Renzi neanche il tempo di respirare. Che una delle prime richieste di intervento urgente sarebbe venuta da qui, lo si poteva anche prevedere, visto il catalogo infinito di emergenze aperte che la città riesce ad offrire, dalla criminalità organizzata ai rifiuti tossici illegalmente smaltiti. Ciò che più sorprende e allarma, piuttosto, è il fatto che questa volta lo scossone sia venuto da una realtà, quella della scuola, che ci si illudeva potesse rimanere fuori dalle grandi tensioni sociali. E invece no. I bidelli e gli addetti alle segreterie scolastiche di tutta la zona flegrea hanno bloccato le scuole di ogni ordine e grado per protesta. Non era mai successo. Lo hanno fatto perché dal 1 marzo, se non perderanno il posto, perderanno di sicuro più della metà dello stipendio, passando da 900 a 400 euro. Ce n'è abbastanza, dal loro punto di vista, per mandare tutti a casa, professori e studenti. Ma da un punto di vista più generale, quello che ieri hanno mandato a casa è niente altro che il diritto allo studio. Bidelli e segretari sono ex lavoratori socialmente utili organizzati in cooperative. Sono l'estrema conseguenza di un assistenzialismo duro a morire, quello che un sistema politico basato sul voto di scambio ha colpevolmente coltivato. Non riesco a creare sviluppo, ma in cambio ti do un po' di elemosina. Il sindaco De Magistris si è affrettato ad esprimere la propria solidarietà, ma solo ai manifestanti, non a chi ci ha rimesso in prospettiva. Vittime e complici allo stesso tempo, per decenni gli ex LSU napoletani hanno bloccato di tutto, dai musei ai traghetti per le isole, dall'aeroporto ai treni dell'alta velocità, e ogni volta, in partiti e istituzioni, è prevalsa una colpevole tolleranza, quasi a voler coprire le loro e le proprie responsabilità. Ma una scuola con le porte sbarrate non è un treno che non parte. Non ti rovina la giornata, ti può rovinare la vita. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Marco De Marco, Quei picchetti dell'assistenzialismo che a Napoli negano il diritto allo studio, dal Corriere della Sera del 18 febbraio. Lo scorso 1 febbraio, il grillino Francesco Neri aveva dato alle fiamme l'ultimo libro di Corrado Augias, reo di aver criticato il Movimento 5 Stelle, definendoli fascisti inconsapevoli. Il gesto, fotografato da Neri e postato sul suo profilo Facebook, aveva scatenato un'ondata di indignazione sia a destra sia a sinistra, evocando immagini di un oscurantismo che si credeva superato da tempo. Ma siamo davvero sicuri che il grillino non avesse diritto di bruciare il libro? O che la reazione sarebbe stata la stessa se avesse dato alle fiamme il Mein Kampf? Commenta provocatoriamente Claudio Sabelli Fioretti. Il dibattito è aperto. Non si può bruciare nessun libro, nemmeno un libro brutto o pericoloso. Bruciare un libro è un atto violento che simbolicamente nega a qualcuno il diritto di esprimersi, cancellando traccia del suo pensiero. E via con Voltaire. Io non sono d'accordo con quello che dici, ma sono disposto a dare la vita perché tu possa esprimere il tuo pensiero. Va benissimo, non si brucia il pensiero altrui. Il tema è succulento e si sa dove si comincia, ma non si sa dove si finisce. Porte spalancate al luogo comune, all'enunciazione di sicurezze, al politicamente corretto. Facile fare bella figura. Quello che ha bruciato il libro di Augias è un pirlotto, ma veramente non aveva il diritto di bruciare il libro di Augias? Voi sapete a chi a me piace coltivare il dubbio e che mi piacciono le contraddizioni. Quindi, pronti, via. Gli intellettuali della sinistra si sarebbero scandalizzati se il Pirlotto avesse bruciato Mein Kampf? Ve lo dico io. No. Voltaire avrebbe detto: «Io non sono d'accordo con quello che Adolf Hitler dice, ma sono disposto a dare la vita perché possa esprimere il suo pensiero». Ve lo dico io. No. Quando si enuncia un principio categorico, bisogna essere disposti ad andare fino in fondo. Il libro gode di un extra diritto? No. Molti stati ancora oggi mandano a rogo libri, quelli che negano l'Olocausto, per esempio, e mandano in galera i loro autori. Una cosa è certa, l'indignazione è un prodotto di largo consumo e ognuno la usa come vuole. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Claudio Sabelli Fioretti, Indignazione variabile, da Io Donna, del 15 febbraio.